Bene, grazie a tutti di essere venuti. Dico semplicemente molto due cose. Prima di passare la parola a Sergio Bologna, che farà un'introduzione alla serata, e poi ci sarà quello che abbiamo scritto, cioè un modo di dialogare, un dibattito, una riflessione. Abbiamo detto, il titolo è Banche Caput, no? Qualcuno ha detto, beh, avete un po' esagerato, ma nella realtà noi stasera, per quanto riusciremo, vorremmo trattare perlomeno del fenomeno, non tanto solo dell'autopsia di queste banche che sono venute a mancare, ma della sintomatologia di tutto il meccanismo, in che rapporto sta anche con questo modo di produzione e soprattutto se si riuscirà a dire qualcosa per il futuro, no? Questa è la cosa. Io non la faccio lunga perché, come si dice, il tempo è breve e qualcuno dice addirittura tiranno, e ti passo la parola velocemente. Grazie Sergio, grazie a Massimo, grazie a Maurizio, grazie a tutti quelli che sono qui. Allora, buonasera, insomma è abbastanza bello tornare in conchetta e sentir parlare di finanza. Io purtroppo non ho assistito alle precedenti discussioni e me ne scuso. Ovviamente che, come dire, mi viene subito spontaneo ricordare quando abbiamo, con la rivista Primo Maggio, assieme a Primo Moroni, costituito il cosiddetto gruppo sulla moneta, che era insomma un gruppo di gente, di studiosi, allora erano tutti giovani, appena laureati. Sì, io penso tra l'altro la carriera che hanno fatto, carriera, insomma, il percorso che hanno fatto sti qua. Allora, uno è diventato Lapo Berti, è diventato uno dei dirigenti dell'antitrust, responsabile dei rapporti col Parlamento. Un altro è diventato addirittura rettore della LUIS. Quindi è cominciato in conchetta per finire a capo della Università di Confindustria, però è rimasto sempre una persona, devo dire, che ha dato sempre una mano. Quindi abbiamo fatto allora un lavoro proprio sulla finanziarizzazione dell'economia, che è quello che poi ha portato, che porta ancora oggi, i disastri che sappiamo, insomma, cioè di una specie di mondo della finanza che si libera o si stacca sempre di più dal mondo della produzione, dell'economia reale e così via, e diventa quello che Marx chiamava la formazione di una ricchezza ex nihilo, no? Questa sera il relatore riprenderà un tema che aveva lasciato, non dico in sospeso, che aveva affrontato la volta scorsa, ma su cui desidera ritornare, cioè il tema del debito, che è un tema fondamentale. Ed è giusto, lui dice, no, è difficile percepire il debito come un prodotto. Io mi ricordavo appunto quando Maurizio Lazzarato aveva fatto quel libro, vi ricordate, L'uomo indebitato, ma di quanti anni è? Siamo da perdere. Maurizio Lazzarato era un mio studente, si è laureato con me all'Università di Padova, e dopo ci siamo trovati tutti e due a Parigi, in esilio a Parigi. Ed era quando avevano messo in piedi loro un gruppo, una squadra di calcio, e io facevo il presidente della squadra di calcio, e una volta mi sono divertito a contare gli anni di galera appioppati a questo 11, saranno stati 168, voglio dire. Tra l'altro con pochi compagni purtroppo scomparsi, Giambattista Marongiu, Giorgio Santilli, veramente era gente molto in gamba, santo Dio. Va bene, quindi tu riprendi sostanzialmente il discorso sul debito, che effettivamente è un discorso fondamentale, insomma anche Cristian Marazzi per esempio su questo ha lavorato parecchio, perché effettivamente l'economia del debito è un'economia che possiamo dire è l'economia fondamentale, insomma, più o meno. Il PNRR è una grossa forma di indebitamento praticamente, quindi sul debito si formano le politiche che vanno avanti ancora oggi e così via. E appunto la gestione del debito è uno dei problemi più grossi sia per le banche centrali che per le banche, che per le, come dire, società. Quindi io mi fermo qua, grazie. Ti lascio la parola e semmai dopo, quando dialogheremo, riprenderemo. Grazie mille. dovrebbe andare. Ringrazio per l'introduzione. Per chi non ci fosse stato la volta scorsa, avevamo affrontato varie tematiche relative a questa finanza dominante, invasiva, pervasiva, e che in sostanza ha sostituito come importanza l'economia e attraverso meccanismi che poi andremo a esplorare un pochino più in profondità, ha creato una situazione per la quale, questo è il mio modestissimo parere, il denaro vero, il valore vero è stato sottratto, e oggi per partecipare al discorso della società dei consumi, il reddito disponibile non basta più già da tempo, e quindi il reddito disponibile è composto anche dalla nostra capacità di indebitamento. Quindi l'uomo indebitato, che leggerò prestissimo, è un uomo fondamentalmente non libero, e grazie al suggerimento di Giuliana mi sono andato a leggere questo libro di Graeber, uno dei fondatori di Occupy Wall Street, che si chiama Debito, i primi 5.000 anni, e in sostanza percorre la storia del debito, e la storia del debito è fondamentalmente legata a un discorso di servitù, schiavitù, guerre e non libertà. Il debito, lui, credo ci sia una definizione che secondo me, ci sono due cose che mi hanno colpito particolarmente, sono brevissime. Una dice: un debito è solo la perversione di una promessa, è una promessa corrotta dalla matematica e dalla violenza. E un'altra il debito è quel peculiare accordo con cui due esseri uguali decidono, tra virgolette, di non essere più uguali per un periodo di tempo fino a ritornare paritari dopo la scadenza del debito. Allora, il debito, ovviamente, che fa parte del nostro modo di vivere, sicuramente più negli Stati Uniti che in Europa, ha chiaramente un lato fisiologico, perché la finanza dovrebbe servire ad anticipare flussi di denaro che vengono prodotti da iniziative di tipo industriale, imprenditoriale, e poi evidentemente il debito ha anche un lato oscuro. È il lato oscuro nel senso che è una compensazione, come dicevo prima, alla sottrazione della vera sostanza personale. Quindi ci sono dei dati abbastanza sconvolgenti per i quali si arriva a dire che ogni famiglia americana è indebitata, è esposta per il 130% delle proprie capacità reddituali come debito, che il totale del debito delle famiglie americane è il 20% del PIL. Ci sono tutta una serie di considerazioni che ci portano molto lontano, ma fondamentalmente il debito è nei confronti di banche, nei confronti di società finanziarie, è nei confronti di, per esempio, carte di credito. Se possiamo a volo d'uccello dare dei parametri, poi torniamo alle banche. Negli Stati Uniti le carte di credito hanno interesse libero, quindi possono caricare qualsiasi tasso di interesse, 100, 50, 25, non è un problema, nel senso che è passata una legge negli Stati Uniti che ha consentito alle carte di credito di addebitare, di caricare interessi a loro piacimento. Chiaramente le carte di credito sono incorporate in uno stato tipo North Dakota che non ha una legislazione a proposito di questo. Quindi, per darvi un'idea, la Visa nel 2022 ha avuto un giro d'affari di 30 miliardi di dollari e utili per 15 miliardi. Quindi credo che l'unico paragone si possa fare con la cocaina o con, non so, con qualche droga di quel genere. Quindi stiamo parlando di un sistema il quale è diventato irrinunciabile, soprattutto nei confronti del mercato americano, che ha delle, fortunatamente per l'Europa, ha delle abitudini un po' diverse da noi. D'altronde il sistema sociale europeo, non dappertutto, però sostiene quindi un'educazione e una sanità, un'istruzione e una sanità che sono evidentemente disponibili a tutti senza oneri, mentre negli Stati Uniti sappiamo benissimo che le università sono carissime. E lasciamo questo argomento, se vi va, con l'idea che la maggior parte dei fallimenti delle bancarotte personali negli Stati Uniti è dovuto a malattie, quindi cure e necessità di ospedalizzazioni che non si riescono a pagare. Quindi è chiaramente è un sistema, per fortuna, che è ancora abbastanza lontano da noi. Sul discorso delle banche, per non portar via troppo tempo, volevo condividere con voi un'esperienza che ho avuto io, nel senso che banche Caput, come dicevo a Marco, ogni banca muore in un modo diverso, come gli esseri umani, come gli animali. Non c'è un modo standard per una banca di saltare per aria. Io ho lavorato per 3 anni in una banca americana che ha avuto l'onore di saltare per aria nel 1984. Io ho lavorato dalla fine del 79 fino a metà dell'82. Questa banca si chiamava Continental Illinois National Bank and Trust, stava a Chicago, era di Chicago, era una banca con una lunga storia, perché è nata nel 1912, e era una banca. Chicago è una città che vive, è una città brutale, una città, sì, quella di Al Capone, ma è una città che ha un complesso di inferiorità nei confronti di New York fortissimo, per cui ha sempre cercato di fare le cose in modo massiccio, in modo grande, sempre molto preoccupata di noi siamo il numero uno in questo, siamo il numero uno in quell'altro. Questa banca è una banca che nel 1932, quindi dopo tutto il grande problema, o quasi alla fine della grande recessione, questa banca deriva da un'incorporazione, da una fusione di varie banche, e rinizia la sua attività con una cosa divertente e molto particolare. A seguito di tutto il disastro del 1932, la legge bancaria dell'Illinois proibisce, per limitare la dimensione dei depositi di ciascuna banca, di avere filiali al di là di un miglio dal quartiere centrale. Se foste arrivati a Chicago quando ancora la banca esisteva, avreste trovato filiali ogni angolo di strada della Continental Illinois, perché cercavano di raccogliere più soldi possibile dovunque, però insomma un miglio non è tanta roba. Quindi, siccome avevano voglia di crescere, proprio per questo discorso che bisogna scalare le classifiche, ed erano tipo 18esimi, 19esimi come volume d'affari, è venuto in mente qualcosa di interessante. Qui c'è la diversità rispetto a altre situazioni bancarie. Loro hanno detto: ma non possiamo prendere depositi da individui, da privati, però possiamo chiedere depositi alle altre banche. Quindi sul mercato cosiddetto interbancario sono andati dalle varie Citibank, Bank of America a chiedere dei depositi. Quindi ci date dei soldi? E quelli hanno detto: non c'è problema, vi diamo dei soldi. I soldi chiaramente non arrivano in forma di $1,000 come dall'individuo, o $10,000, arrivano in termini di 50 milioni, 100 milioni, 200 milioni di dollari. Quindi hanno detto: ma che bello, noi compriamo i soldi da queste banche, ci mettiamo uno spread, quindi un margine, e poi li prestiamo in giro. E questo però non bastava, perché sì, si cresceva, ma non si cresceva abbastanza. Allora hanno detto: ma noi facciamo un'altra cosa, ci facciamo dare i soldi dalle banche, poi andiamo da altre banche e compriamo i loro prestiti. E qui Flavio si suicida. Quindi cosa avete sui libri? Noi abbiamo prestato soldi a quelli lì. Ah, fantastico, li passiamo dai vostri libri ai nostri libri e quindi diventiamo sempre più grandi, quindi il nostro bilancio si ingigantisce. Cosa succede? Succede che questa dinamica ha degli, ovviamente, dei lati perversi già evidenti. Io lavoro per questa banca e vengo mandato a Chicago, dove conosco quelli che avrebbero dovuto essere i capi della banca, e pur nella mia inesperienza mi accorgo che più si saliva di grado più c'era da mettersi le mani nei capelli, nel senso che qualcuno parla di capitalismo feudale, ecco, lì era il potentato di questo presidente che si circondava di yes men che parlavano delle stesse cose nello stesso modo, usando addirittura le stesse parole, per cui vedo che insomma era una banca molto particolare, dove le competenze non erano più verso il basso che verso l'alto. Succede, piccolo episodio nell'episodio, che quando io sono a Milano, negli anni 80, qualcuno si ricorderà, si parlava di lira pesante. Siccome c'era grande inflazione, si diceva al posto di 1.000 lire prendiamo una lira per ogni 1.000 lire. E quindi chiaramente era un pre-euro nell'intenzione, però locale. Il mio capo americano vi dice: mi hanno detto da Chicago che se dovesse arrivare la lira pesante, comunque il nostro budget rimane lo stesso. Quindi i numeri devono essere gli stessi. Ho detto: ma mi stai dicendo che noi dobbiamo fare 1.000 volte di più di quello che facevamo prima con la lira pesante? Mi sembra un po' complicato. Dice: ma sei sicuro che a Chicago abbiano capito che cosa sarebbe o non sarebbe la lira pesante? Morale della favola, non l'avevano capito. Nel frattempo la banca era diventata la sesta banca per volume negli Stati Uniti. Allora uno dice: Monti, sei stato sfortunatissimo perché sei capitato in una banca di deficienti. È per quello che hanno preso te, per cui simili si attraggono. Ma rimasi veramente così. La facciamo breve. Uno di questi prestiti che erano stati comprati era stato deliberato da una banca nell'Oklahoma che finanziava quelli che fanno prospezione per pozzi petroliferi. La situazione di questi drillers, come vengono, di questi scavatori, era una situazione assolutamente non buona né giusta, e questa banca salta evidentemente anche la massa di prestiti che si era portata nella pancia la Continental Illinois. Cosa succede? Succede che la notizia praticamente in 0 secondi diventa notizia di tutti, e le banche, che non sono come il privato risparmiatore, a posto di portare via 1.000, 5.000, 10.000 dollari, portano via 50, 100 milioni, e la banca rimane praticamente senza denaro nello spazio di 48 ore. Si scopre poi che a favorire questo acquisto di questo pacchetto di prestiti c'era un signore il quale era stato profumatamente massaggiato a livello di corruzione, e quindi lui aveva dato il benestare per questa operazione, che era poi diventata il cancro che si era tirata dentro la banca, e che la banca è fallita. La banca allora si parlava di 40 miliardi di dollari, quindi tanti soldi, ma rispetto a quelli di oggi poca roba. Comunque intervenne l'ente federale sull'assicurazione dei depositi, e in sostanza, tra quello che era legalmente dovuto e quello che hanno voluto comunque dare, i danni sono stati contenuti. Poi un po' di anni dopo, quello che rimaneva è stato venduto alla Bank of America, e così si è chiuso il cerchio. L'espressione che avrete sentito 1.000 volte, troppo grosso per fallire, nasce da lì. Un senatore, davanti all'intervento massiccio su questa banca, disse: ma allora, se tu sei troppo grande per fallire, è il migliore affare della tua vita, perché se sei piccolo ti lasciano andare, però se sei abbastanza grande comunque ti vengono a salvare. Da lì, ma anche, no, non necessariamente da quell'episodio, ma come forma mentis, possiamo arrivare più in là dicendo che quello che viene chiamato rischio morale, Maurizio poi ve ne parlerà ampiamente, è diventato uno dei modi di procedere. Quindi se io so che se opero con successo i benefici arrivano a me, e se invece le cose vanno male c'è la socializzazione delle perdite in qualche modo, ma cosa mi interessa essere prudente, utilizzare la cura del buon padre di famiglia? Io vado, come dicono, they go for broke, vado e punto tutto, perché se riesco arriva tutto a me, e se invece non ci riesco il danno viene spalmato sui contribuenti. Questo era il 1984, quando poi la banca io me ne sono andato nell'82 e a giugno, nel luglio saltava questa banca dell'Oklahoma. Poi dall'82 all'84 è stato sostanzialmente la messa in liquidazione della società. Premetto che non sapevo niente più di quello che sapesse la gente, nel senso che è stata una coincidenza andarmene, però diciamo che le premesse dal punto di vista gestionale, dal punto di vista del modus operandi di questa banca, erano talmente scadenti che diciamo non era per me molto interessante proseguire. Però ha creato un precedente importante, perché poi, se arriviamo al 2008, la grande crisi, quanti si sono comportati in questo modo? Moltissimi, dove praticamente a un certo punto sapevano che sarebbe arrivato papà a tirarli fuori dai guai. Passiamo dal 2008 a oggi, e in sostanza dicono concomitanze, quindi il credito svizzero viene comprato dall'UBS, la Silicon Valley Bank viene in qualche modo sistemata, ma sono sempre sono modi diversi, ma con fondamentalmente una lezione uguale. La prima cosa che ti insegnano in una banca è che se tu presti a lungo termine devi avere depositi a lungo termine, se presti a breve termine devi avere depositi a breve termine. Perché se hai questa discrepanza, per cui tu presti a lungo termine ma i tuoi depositi sono a breve, è chiaro che se qualcuno viene a chiedere i depositi non glieli posso dare, perché sono impegnato per 5 anni mentre mi sono impegnato per un anno con lui. Quindi da lì nasce questo modus operandi, per il quale siccome nessuno verrà mai a vedere il gioco, io faccio di tutto e di più. Mi è stato chiesto, ma è un di cui, sul discorso dei derivati, torno a quello che ci siamo detti l'ultima volta. Nel 1933 viene emanata questa legge che si chiama Glass-Steagall Act, ne abbiamo parlato, che divide, separa l'attività commerciale dall'attività speculativa. Poi nel 1999 arriva il signor Clinton, il quale è stato una benedizione per la comunità finanziaria, nonostante fosse democratico, eccetera, e viene abrogato il Glass-Steagall Act, per cui la commistione delle due attività, commerciale e speculativa, chiamiamola così, questa commistione viene accettata, viene validata, e quindi le banche ritornano a fare praticamente di tutto di più. Nel 2010 viene di nuovo riconsiderata la questione e viene fatta una nuova legge che si chiama Dodd-Frank, da due senatori democratici, e quindi vengono, diciamo, è un equivalente del discorso di Basilea. Quindi Basilea nasce nel 74 per, diciamo, regolare l'attività bancaria, finanziaria, soprattutto bancaria in Europa, e comincia a mettere dei paletti. Quindi ad oggi le banche, in teoria dovrebbero essere monitorate secondo criteri corretti di prudenza, diciamo tutti i modelli di calcolo del rischio sono stati aggiornati, tutta la, diciamo, l'analisi degli scenari possibili è stata resa più accurata e via dicendo, però ci sono delle cose che evidentemente continuano a succedere. E sul discorso della Silicon Valley Bank piuttosto che del credito svizzero ci troviamo sempre di fronte a questa mancanza di limiti. Il credito svizzero è una storia travagliata da almeno 15 anni e, come raccontavo prima, la mia opinione è che le banche americane che possono fare di tutto sul mercato più grande del mondo offrono ai loro manager delle remunerazioni che sono incredibili. Quindi banche che siano anche banche commerciali o comunque banche nel vero senso della parola o banche d'affari come Goldman Sachs, Morgan Stanley eccetera, in un anno buono remunerano i vertici con delle cifre che non sono nemmeno immaginabili in Europa. E quindi i buoni banchieri svizzeri, una volta arrivati in America, hanno detto: ma perché io devo prendere in un anno buono un trentesimo di quello che guadagna quello lì che sta di fronte a me? Io mi devo inventare qualcosa per arrivare a poter ricevere un compenso del genere. Ecco quindi che le banche sono andate a fare la stessa attività speculativa che facevano gli americani, solo che gli americani erano lì da un pezzo e loro hanno fatto la figura che hanno fatto perché sono andati ultimi della fila a partecipare a un gioco che aveva le carte già segnate e non erano state date a loro. Però ancora una volta, come nella continente dell'Illinois, c'era un management avido, solo interessato a misurazioni di tipo quantitativo e mai qualitativo, altrettanto un'ambizione di poter diventare qualcuno di importante solo per le quantità di soldi che portavi a casa, ecco che la prima cosa che fai, vai da un grande consulente e gli dice: senti, devo convincere la mia società e quindi il consiglio di amministrazione che è giusto che noi ci diversifichiamo qui e là. E quindi nel momento in cui questo dovesse succedere, è chiaro che tu sei in cima alla piramide e tutti i benefici te li porti a casa. Sulla Silicon Valley Bank lascio da qui in poi la parola a Maurizio, il quale non è stato né sorpreso dal credito svizzero né sorpreso dalla Silicon Valley Bank, e la sensazione è che noi sappiamo una frazione di una frazione di quello che è realmente successo e sta succedendo, perché ci sono dei numeri che non quagliano, ci sono dei numeri che vengono, c'è una menzogna, c'è una verità che non può essere assolutamente rivelata, perché il sistema, come avevamo già anticipato l'altra volta, il sistema non funziona più. Però è come Deng Xiaoping che è rimasto morto 2 anni e lo tenevano in vita perché non poteva morire. Ecco, diciamo che siamo nelle stesse condizioni, perché nel momento in cui qualcuno dice la parola magica "ma questa cosa è morta", si scatena la sesta guerra mondiale nucleare e quant'altro. Maurizio, vuoi darci... Però prima di far entrare Maurizio, che è la nostra punta stasera, dalla panchina, se qualcuno ha qualche domanda da fare, perché mi rendo conto che magari è un... insomma, non sempre tutti seguono senza problemi, ecco. Se no, diamo subito la parola a lui e poi andiamo avanti. Ma... No, noi siamo per la... mentre il professor Bologna ha un atteggiamento filosofico e fisiologico nei confronti della finanza, che ne rendiamo merito, noi abbiamo un atteggiamento assolutamente afilosofico e patologico, per cui diciamo che la nostra parte è quella di, se vogliamo, aver sentito l'odore della pancia della finanza, e che non è un odore necessariamente gradevolissimo, no? Dipende da che parte dell'apparato digerente. Beh, facendo parte facendo parte del, diciamo così, dell'organismo, diciamo che se la finanza sta male ce ne accorgiamo subito, no? Visto che ci bazzichiamo dentro da 40 anni quasi. Ma non so quanti di voi sono stati qui all'ultimo l'ultimo incontro che avevamo fatto, avevamo raccontato già un po' di cose che potevano anticipare quello che sta accadendo in queste settimane. Il problema principale di questa instabilità bancaria, nonostante tutte le regole che vengono messe a livello mondiale, dipende dal fatto che, come dice la signora Lagarde, che è la Presidente della Banca Centrale Europea, è vero che le banche europee sono più solide delle altre banche a livello mondiale. Sono più solide fino a quando però non incorporiamo nelle banche europee l'attività bancaria che viene fatta negli Stati Uniti dalle banche europee. Il punto è un po' questo. Per fare l'esempio di Credit Suisse. Credit Suisse è una banca gigantesca per la Svizzera, perché ha un bilancio che vale 1.400 miliardi di dollari. Un trilione punto quattro. 1.4. Sono troppo vicino. Quindi il Credit Suisse ha un bilancio di 1,4 trilioni di dollari. Sapete quanto è il PIL della Svizzera? 800 miliardi. Quindi l'UBS è un'altra banca che ha un bilancio di 1.500 miliardi di dollari, 1,5 trilioni. La fusione UBS Credit Suisse crea una banca da 3 trilioni di dollari su un'economia che ha un PIL di 800 miliardi. Ora, a gestire una bestia come quella adesso è un problema, perché appena si becca il raffreddore voi potete capire cosa succede all'economia svizzera, no? Quindi la sciaguratezza dell'operazione consiste in questi numeri. Già uno si rende conto di cosa si è messo in casa. Ma al di là di questo volevo dirvi che i problemi nascono, perché nascono in America? Perché tutte le banche fanno le cose là? Perché saltiamo per aria nel 2008... Deutsche Bank, Barclays, tutte le grandi banche europee, Societe Generale, BNP Paribas, perché saltano tutte? Saltano tutte in America, con il business in America. Qui non c'è un'attività così speculativa, no? Gli americani invece chiaramente creano un corridoio deregolamentato per l'attività bancaria internazionale che porta le banche europee che vogliono fare un certo tipo di profitti, ad andare a mettere là questa attività. E allora cosa succede? Facciamo l'esempio di Credit Suisse. Nel 2008 le banche sono saltate in America, le banche europee, ok? E tutti gli stati hanno pagato, gli stati europei hanno pagato i buchi delle banche che hanno fatto là. Il Credit Suisse in America, allora il Credit Suisse qua in Svizzera, in Europa, ha un'attività bancaria assolutamente perfetta, senza nessun problema particolare. Una banca sana, ok? Qua non era fallita la banca. La divisione americana aveva in bilancio, ha tuttora in bilancio, 600 miliardi di dollari di titoli strutturati. I vecchi mortgage-backed securities del 2008. Spiegare. Cioè titoli strutturati sul settore immobiliare, esattamente come nel 2008, ok, la stessa roba. Mutui ipotecari. Ok. Quella posizione di 600 miliardi di dollari, a occhio e croce, noi stimiamo, questi sono numeri stimati, non sono mai stati dichiarati ufficialmente, però si stima che ci sia una perdita del 20% su quelle posizioni, tra il 15 e il 20% circa. Questo vuol dire che la divisione americana del Credit Suisse ha prodotto un buco, diciamo così, di circa 100 miliardi di dollari. Tenete conto che nel 2022 il bilancio di Credit Suisse chiude con una perdita di 7,9 miliardi di dollari e viene fuori lo scandalo del secolo in Svizzera. Se avessero dovuto dire che c'era un buco di 100 miliardi di dollari, sarebbe probabilmente sarebbe successa la rivoluzione in Svizzera, ok? Quindi non se n'è parlato assolutamente di questi numeri, nessuno sa niente, queste cifre non sono mai state dette, però a un certo punto la cosa che ha fatto abbastanza notizia e che ha fatto drizzare le orecchie a tutti quelli che fanno il mio lavoro è che la Banca Nazionale Svizzera, per salvare il Credit Suisse, metteva a disposizione una linea di credito per, guarda caso, 100 miliardi di dollari. A quella dico, ma scusa, una banca ne che perde 7, perché ha bisogno di una linea di credito di 100? Non è che siamo tutti scemi con l'anello al naso qua, no? Quindi la divisione americana ha questo problema. Da cosa nasce il problema della divisione americana che tira giù tutta la banca? Esattamente dagli stessi problemi che oggi hanno tutte queste banche americane che stanno saltando. Le cosiddette piccole e medie banche. Allora, l'altro giorno prendevo in giro un po' gli analisti finanziari, no? Che parlavano del too big to fail, too small to fail, troppo piccoli per fallire adesso. Se sei troppo piccolo per fallire e fallisci e ti devo salvare perché sei troppo piccolo per fallire, vuol dire che il sistema è messo malissimo. Perché un danno così mi genera un effetto collaterale su tutto il sistema micidiale. Perché? Perché il problema è che una banca, tutti parlano di Silicon Valley oggi, nessuno sapeva neanche che esisteva, era la 16ª banca degli Stati Uniti, di solito a livello mondiale si parla solo delle prime 6-7. Tutti parlano oggi di Signature Bank, un'altra banca secondaria. Nessuno sapeva che esisteva, però oggi è un problema mondiale. Tutti parlano della National Republic Bank. Questa era conosciuta, però non stava neanche nelle prime 10. E come mai saltata? Era un modello di banca incredibile in America. Perché saltano queste banche? E hanno raccontato, le banche sono saltate per un problema di liquidità, avevano investito sui titoli di Stato, che sono le cose più sicure del mondo, e hanno dovuto improvvisamente vendere questi titoli di Stato e hanno preso delle perdite. E quindi le perdite erano talmente grandi che hanno azzerato il capitale della banca. La notizia di queste perdite si è diffusa tra gli investitori, c'è stata la corsa ai depositi, portando via i depositi. La banca è andata in crisi di liquidità e le banche sono saltate. Questa è la storia ufficiale. Ma la verità è solo per metà è stata raccontata. Perché se io racconto che una banca ha perso sui titoli di Stato, beh, cavolo, hanno fatto le cose più sicure che c'erano, hanno perso, poveracci, sono quasi stati sfortunati, no? Che cosa potevano fare meno di così, no? Sì, però c'è il bilancio di una banca, non è fatto solo dai titoli di Stato, è fatto anche da altre cose, ci sono i crediti. Allora vi faccio un esempio, Silicon Valley è una banca molto particolare, finanzia le società in startup. Sapete che la California è la capitale delle startup tecnologiche nel mondo. Quindi per tenere in piedi queste startup ci vogliono tantissimi soldi. Pensate che oggi tutto il mercato del cosiddetto venture capital, cioè quello delle startup, in America vale 2 trilioni di dollari. Il PIL americano ne vale 20, è il 10% del PIL quella roba lì. È una cifra colossale, capite? Quindi una banca piccolina, 16º posto, con 300 miliardi di bilancio, finanziava un settore pari al 10% del PIL americano. Ok, non in esclusiva, ma era leader in quel mercato lì. Cosa succede quando tu sei leader in un mercato così? Tu presti i soldi a società che sono in una fase di startup, quindi non stanno guadagnando soldi, capite? Quindi io ti presto i soldi, nel frattempo tu però con la tua attività li stai perdendo. E quindi io ti devo sostenere con linee di credito. Quindi ti presto soldi per far andare la tua attività, ma tu man mano che lavori accumuli perdite, perché non hai ancora raggiunto un livello di attività tale da produrre profitti. Ci impieghi 3, 4, 5 anni magari prima di arrivare al cosiddetto punto di pareggio, al break-even. Quindi io per 5 anni ti devo dare sti soldi. Tu, mentre stai gestendo la tua azienda in fase di avviamento, hai sempre più bisogno di soldi. Quindi la banca ti apre delle linee di credito da cui tu continui a tirare credito. Cosa succede? Se queste aziende continuano a tirare credito alla Silicon Valley Bank e dall'altra parte la Silicon Valley Bank per fornire credito deve liquidare i titoli di Stato che ha in portafoglio, su cui aveva parcheggiato la liquidità, ha due opzioni. O taglia il credito alle società che finanzia, ma le fa fallire e quindi perde sul credito, giusto? Oppure liquida i titoli di Stato e prende delle perdite lì, ma non fa fallire le società a cui dà il credito. Quindi il risultato è che però tu sei in un lose-lose game, cioè qualsiasi cosa fai perdi. Ti sei messo in una posizione da cui tu non esci. Quindi vi hanno raccontato la parte del bilancio che ha fatto le perdite, titoli di Stato. Nella realtà abbiamo una colossale posizione di credito nei confronti di un settore dell'economia molto importante per l'America, invendibile, illiquidabile e non realizzabile. Quindi a fronte di asset, di investimenti liquidi che tu puoi vendere, dall'altra parte avevi degli impieghi illiquidi che tu non potevi richiamare. Questo ti produce il botto. È esattamente lo stesso meccanismo del 2008. Cambia lo strumento. Nel 2008 avevo cosa? I titoli di Stato, i titoli strutturati sul mercato immobiliare. Nessuno li voleva più, non li potevo vendere. Nel momento in cui è venuto fuori il prezzo vero di quella roba, sono saltato. Ora, tutte le banche che fanno attività bancaria operano a leva, cioè se tu hai soldi per 10, il tuo bilancio vale sempre 100. Questo è normale, no? È normale. Scusate, siamo partiti da 33% del capitale, sì, e siamo arrivati a 12. Sì, esatto. Quindi in 30 anni. Sì, cioè diciamo che è normale che l'attività bancaria funzioni così. Il problema è la liquidità della tua attività, capite? Nel momento in cui tu ti vai a infognare in un'attività illiquida e poi per un incidente hai bisogno di rientrare e non riesci, salti. Questo è il problema di una banca così. Ecco, ma faccio una domanda. Che cosa c'è di specifico nella Silicon Valley Bank e che cosa c'è invece di generale, diciamo, del sistema? Cos'è di sistemico c'è dentro nella situazione della... Sì, stavo proprio arrivando lì, perché le altre due banche che sono saltate, non è che sono saltate, è intervenuto il governo federale, la Federal Reserve, a dare delle linee di credito per impedire il fallimento e la messa in liquidazione. Quindi questa è un po' la situazione. Le altre due banche, la Silicon Valley Bank, vi ho illustrato qual è la situazione, la mettiamo un attimo da parte, perché è un caso particolare, perché opera in quel settore che vi ho descritto, piuttosto difficile, diciamo, il venture capital. Ma le altre banche invece facevano attività assolutamente tradizionale. Cosa fa la tradizionale banca regionale americana? Cioè queste banche che non sono Bank of America, JP Morgan Chase, no? Le cosiddette banche come da noi, la Popolare di Milano piuttosto che la Popolare di Sondrio, sono banche che fanno solo prestiti al real estate, al settore immobiliare. Il 75% di tutto il credito al settore immobiliare in America è fatto da queste banche qua. il 75%. Perché saltano? Anche qua, narrazione, perdono sui titoli di Stato. Ah, e come mai? È perché li devono vendere. Perché li devono vendere? Domandano. Fatti tutte le domande. Non berti tutta la notizia così come te la danno, me la bevo. Fatti le domande. Perché tu devi vendere questa roba e prenderti queste perdite? Puoi farne a meno? No, perché non puoi farne a meno? Allora andiamo a cercare perché non possono farne a meno. Ci interessa capire quello per capire come siamo messi. Risultato, si scopre che queste banche hanno finanziato in bilancio mediamente quasi tutte le banche regionali americane, cioè quelle che sono sotto le prime 10, che sono tantissime, sono 200, 300. Il 75% del credito al real estate viene fatto da queste banche. Quindi loro cosa fanno? Prestano in particolare a un settore molto remunerativo, perché se io faccio un mutuo per comprare l'appartamento incasso il 5% adesso, ma fino a 5 anni fa incassavo l'1,5, il 2. Non è che guadagnavo tantissimo a fare i mutui per comprare le case per privata abitazione. Allora è cambiato il modo di lavorare, ha detto anziché fare i mutui ai privati cittadini per comprare l'appartamento che si guadagna una mazza, sì, facciamo anche quelli, no? Perché non è che possiamo mandar via la gente. Però il core business della banca diventa i prestiti all'immobiliare commerciale, magazzini, hotel, uffici, ok? Tutto quello che è commerciale, negozi. E chi finanzio? Mica finanzio il piccolo imprenditore che apre la bottega e ha bisogno del mutuo per comprarsi il negozio. No, io finanzio le grandi società immobiliari americane che comprano i centri commerciali, li costruiscono e li affittano. E questi mi pagano il 7-8% su queste operazioni qui, perché sono tutte a leva. Cioè i soldi questi non li hanno per fare 100 centri commerciali. Quindi stiamo parlando di un'attività molto speculativa, no? Queste banche cominciano a prestare alla grande in questo settore. Se voi girate per gli Stati Uniti, ci sono centri commerciali ogni 50 metri. Si è creata una colossale bolla immobiliare su quello che è il real estate commerciale. Poi che cosa si fa? Quando tu fai tutti questi prestiti, finisci i soldi a un certo punto, giusto? Io ho prestato, avevo 100, ho prestato 100 a queste società, e adesso cosa faccio? Se voglio fare altri prestiti ho bisogno di altri soldi. Allora cosa prendo? I prestiti che ho già erogato, li impacchetto in un'obbligazione, cartolarizzazione si chiama, e li vendo ai fondi di investimento che siete voi. Perché voi avrete fondi di investimento nei vostri portafogli, no? Ok. Quindi li vendo ai privati, vanno a finire, il rischio viene scaricato sul settore privato, ok? Che sono gli investitori, piccoli investitori che comprano i fondi di investimento obbligazionari che ci hanno dentro tutta l'immondizia del sistema oggi, no? Quindi a quel punto liberano il portafoglio crediti e ricominciano a fare credito. Cosa è successo? È successo che arriva il Covid e questo meccanismo funzionava bene. Arriva il Covid, si blocca tutto, la gente non può andare in giro, la gente non va più in ufficio, la gente comincia a lavorare da casa e gli spazi di occupazione degli uffici vengono giù. Tu che sei la grande società immobiliare che si è comperata 100.000 metri quadri di ufficio a Manhattan, ne affitta solo una parte, il 60%, 70%, quindi le tue entrate calano, giusto? Ma il mutuo lo devi pagare, ovviamente. Quindi si comincia a innescare una crisi che comincia 3 anni fa, di cui se ne parla già subito, ma non si dice niente. Ma gli addetti ai lavori sapevano che stava cominciando un casino. Poi che cosa succede? Succede che gli alberghi si svuotano e tu hai comperato 5 immobili per metterci dentro degli hotel che per 6 mesi non incassano una mazza perché la gente in hotel non ci va più. Ma il mutuo tu lo devi pagare e le tue entrate vanno giù, non sei in grado di pagare. Quindi questo dà una pesantissima gomitata a questa attività speculativa e l'attività nella realtà non riparte più dopo il Covid. Cioè tutta l'attività commerciale soffre pesantemente. Nel frattempo pensate che anche i centri commerciali vanno in crisi, perché durante il Covid esplode la mania di acquistare online e quindi questo mette in crisi le vendite nei centri commerciali. Meno revenues sui centri commerciali, società di distribuzione che vanno in crisi e anche lì la situazione comincia ad andare. Che succede? Succede che a questo punto, da un anno a questa parte, quindi è già da un anno che c'è questa situazione, si bloccano tutte le cartolarizzazioni di questi mutui nei confronti di questo settore commerciale. Cioè le banche che erogano credito non riescono più a liberarsene perché nessuno le vuole più comprare, perché dicono no, guarda, questo mutuo qua c'ha dentro un centro commerciale che per metà è vuoto, quindi praticamente questi qua non pagheranno mai sto mutuo, quindi non lo voglio. E le banche se lo devono tenere in bilancio la sola, non riescono più a rifilarla al mercato, capite? E quindi che succede? Si tengono in posizione questa cosa qua e cominciano ad avere problemi, perché nel frattempo questi signori che hanno comprato tutti questi immobili commerciali a credito dicono alla banca: o tu continui a farmi credito, se no io faccio default. Allora cosa fanno? Dicono: ma io per farti credito devo avere altra liquidità. E la liquidità che ho in questo momento è investita in titoli di Stato del Tesoro americano che ho comperato a 100 e adesso valgono 80. Perché i tassi sono saliti? E quindi che faccio? Devo vendere quelli, se no mi salti. E se mi salti tu, si innesca un casino. Comincia a saltarne uno, è saltato quello là, non vuoi vedere che c'è anche quello là che sta per saltare? Allora prendiamoci le perdite di lì e continuiamo a tenere in piedi di qua. Stessa storia della Silicon Valley, ma su un mercato diverso. Cosa vale il mercato del real estate commerciale in America? Perché a me interessano poi quantificare ste robe, no? Perché uno si racconta la storia, però dice sì, ma cosa vale questo mercato qua? Vi ho detto, il venture capital vale 2 trilioni di dollari su 20 trilioni di PIL. Il real estate commerciale vale 5,6 trilioni di dollari su 20% del PIL. Cominciamo a mettere assieme 5,6 più 2, siamo a 7,6 trilioni di dollari di crediti problematici su un PIL di 20. Ecco, questa è la situazione. Quando dico che Credit Suisse cade dentro la storia di Credit Suisse, si incrocia con la piccola banca americana che faceva credito al real estate americano, ecco, vedete dov'è l'incrocio, no? È proprio qua. Salta una banca piccola che faceva queste cose e una banca grande che aveva la divisione in America che faceva quelle cose lì, fa il botto. Quindi adesso la situazione, dove va a finire una situazione così? Le autorità americane intervengono, danno liquidità per impedire un contagio. Il governo svizzero prende in carico tutte le perdite del Credit Suisse per convincere UBS a comperarsela, perché l'UBS non poteva comprare il Credit Suisse e prendersi 100 miliardi di perdita, andava giù anche l'altra. Allora il governo svizzero adesso gli ha detto: ok, tu la compri, la paghi 2, 100 già poi io. 100 di perdita li paga la Confederazione. Non diciamolo agli svizzeri. Se no, quelli c'hanno i forconi. capisci? Il contadino svizzero c'ha il forcone. Quindi hanno detto non diciamo niente, no? E addirittura la Svizzera, e questo è una cosa molto pericolosa, arriva a modificare le norme del codice civile, e cioè dice: siccome se andiamo in assemblea dagli azionisti a chiedergli di votare questa operazione, gli azionisti ce la bocciano perché vogliono sapere come mai è saltata la banca, noi saliamo più prima. Noi modifichiamo la norma del codice, introduciamo la domenica notte una normativa che impedisce agli azionisti di Credit Suisse di votare in assemblea. No, questo è per dirvi a che livelli si arriva, eh? Cioè quando uno parla le regole ci sono, eh? L'amore è eterno finché dura, ok? Funziona così, no? Quindi siamo arrivati anche a fare queste cose illegali. Adesso qui arrivano migliaia di denunce, ci saranno delle code legali per 10-15 anni su queste cose qui, che chiaramente chi le paga? Il cittadino svizzero, ovviamente, il cittadino svizzero le paga, mica le paga l'UBS. Quindi, no, vedete cosa... Voglio farti una domanda. Allora, tra contagio, effetto domino, eccetera, eccetera, a me hanno detto che... ma non perché io sia dentro le segrete cose, che l'America ha insistito tantissimo, ha fatto una pressione enorme sulla Svizzera, sulle autorità svizzere, perché succedesse questo. Certo. Quindi il ragionamento è, per deduzione, se tutta questa pressione è stata esercitata dagli americani sugli svizzeri, che voglio dire, tra la Silicon Valley Bank e il credito svizzero ci passa un mondo, significa che il sistema a livello globale è appeso a un filo. Allora, io ormai da tempo che dico, forse l'ho detto anche l'ultima volta che sono venuto qui, noi viviamo sull'orlo di una crisi finanziaria tutti i giorni. Infatti, da un giorno all'altro, pam, saltano tre banche, no? E dico, ma come mai saltano tre banche? Perché chi sa le cose sa come siamo messi. Chi sa le cose sa come siamo messi. Un'altra cosa vi voglio dire, perché saltano poi queste banche, no? Perché a un certo punto, pensate, in Europa introduciamo la regolamentazione bancaria dopo la crisi del 2008 di Basilea, si chiama Basilea perché a Basilea c'è la sede della Banca dei Regolamenti Internazionali, che è come una banca che supervisiona tutte le altre banche centrali. Da 50 anni l'anno prossimo. Che c'è? Se c'è Basilea. E dicono, mettiamo delle regole stringenti che non si possono fare certe cose. E gli americani cosa dicono? Sì, mettiamole. Però per le nostre banche sotto il decimo posto di dimensione, no. Quindi se il Credit Suisse in America... Questo è Trump, no? Questo è Trump. Se Credit Suisse in America è una media banca regionale, perché ha un bilancio di 600 miliardi di dollari, la JP Morgan ha un bilancio di 3.500 miliardi di dollari. Capite? Quindi 600 miliardi di dollari è una banchetta. Sì, ma quella banchetta lì ti tira giù la tutta l'altra banca però. Allora, gli americani creano sempre questi buchi nella vigilanza, nelle regole, perché se no non ci stanno dentro. Tu non ci stai dentro. Tu hai un modello di crescita, vi ricordate l'ultima volta avevo detto, il modello americano è una debt-driven economy, cresce solo se fa debito. Se tu non fai debito, la macchina non te la compri, il televisore non te lo compri, il cellulare non te lo compri. I figli non vanno all'università. Non vai all'università, non fai niente, ma neanche la spesa al supermercato fai. Perché quando tu fai la spesa al supermercato, paghi con la carta di credito che ti verrà addebitata un mese dopo. Vi ho detto la volta scorsa, per chi non c'era... quando io studiavo negli Stati Uniti eravamo, il mio corso era di circa una cinquantina di persone, c'era un tedesco, come barzelletta, c'era un tedesco, c'era un indonesiano, c'era un italiano, c'era un inglese, tutti gli altri erano americani. Degli americani, facciamo conto che fossero, non so, 45, penso 39 avevano un debito per finanziare i loro studi. Avevano un debito che si portavano dietro dal college, che non erano riusciti a ripagare perché usciti dal college non guadagnavano abbastanza. Quindi sono andati a fare un master prendendo altro debito, in modo tale da sperando che una volta ottenuto il master avrebbero potuto ripagare il debito fatto per il master e il debito fatto per il college. Quindi la situazione che per loro è considerata normale, come vi ho detto l'altra volta, il debito, quelli che vengono chiamati debiti studenteschi, è composto da una componente federale e una componente invece di banca commerciale. Però il messaggio da cui siamo partiti sul discorso del debito è chiaro ed evidente, che tu parti fin da giovanissimo con una visione del mondo di un certo tipo, per cui il debito diventa la tua, forse nemmeno seconda natura, la tua prima natura. Quindi per partecipare alla società in tutti i suoi, tu devi essere indebitato. Per cui il debito è parte costitutiva, fisiologica di tutto quello che sarà la tua vita, da quando sei studente a quando... Quindi il ragionamento da cui siamo partiti è: i soldi sono finiti o sono spariti o sono stati portati via, quello che è rimasto, perché tu ti senta partecipe del sogno americano, è il debito. E quindi chi gestisce il debito nelle sue varie declinazioni, quindi banche, società finanziarie, carte di credito e roba del genere, è chiaro che ha il vero potere. Sì, bisogna... Devo dire una cosa. Adesso la storia che vi ho raccontato adesso sulle banche finisce dicendovi perché fanno queste cose, perché non hanno messo la regolamentazione alle banche medio-piccole, perché non ci stanno dentro, ho detto, no? Cioè non ci stanno dentro nel senso che loro devono uscire dalle regole per fare leva finanziaria, cioè per fare debito, perché se no non crescono, come diceva Massimo. Però il debito non è una cosa negativa di per sé, dipende come lo usi, no? Ok? Perché le nostre economie sono cresciute sul debito, sempre. Però all'inizio il moltiplicatore positivo di questo debito funzionava in un certo modo. Poi con il passare degli anni ha funzionato sempre meno. Cioè, voglio dire, chi era qui l'ultima volta si ricorda forse che ho detto: pensate che adesso l'economia americana, per produrre un dollaro di PIL, ha bisogno di 7 dollari di debito. È un moltiplicatore impossibile da gestire, praticamente impossibile, perché se tu per raggiungere un dollaro di ricchezza devi fare 7 dollari di debito, è chiaro che fallisci, ovvio. Quindi il cosiddetto moltiplicatore marginale del debito è in costante calo da circa 20 anni, in costante calo. Lo sanno anche loro. La domanda è: perché continuano a ripartire da lì? Perché non hanno alternative? Perché, come diceva Massimo, se tu prima facevi 100.000 dollari di debito per prendere la laurea alla Columbia University e poi ne guadagnavi 500.000, ci stavi dentro. Ma siccome adesso fai 100.000 dollari di debito all'anno, non per finire gli studi, quindi finisci che ne hai 600-700.000 sul groppone per il resto della tua carriera. E se hai 700.000 dollari di debito sul groppone, perché nel frattempo devi mangiare, devi vestirti e via dicendo, devi pagare la retta del pensionato del college, non solo della retta universitaria, arrivi che hai 700.000 dollari di debito, se ne guadagni 70-80.000 quando ci esci, visto che i 70-80.000 come parti te li sei già spesi tra carte di credito e via dicendo. Per riagganciarmi al discorso che facevi tu, il costo del debito, anche qui ci sono due livelli di costo del debito: quelli per le grandi corporation, cioè per l'elite americana, diciamo quelli che hanno in mano l'economia, quelli che hanno in mano gli strumenti della produzione. Il costo del debito per questi signori qua è il tasso di interesse che voi vedete sul mercato. Cioè, se i titoli di Stato rendono l'uno, questi signori quando vanno in banca o emettono obbligazioni sul mercato per finanziarsi pagano l'uno. Ma se voi siete un privato che usa la carta di credito, buona fortuna. Se siete il miglior pagatore, cioè il cosiddetto cliente prime, pagate 19 punti percentuali sopra il prime rate. Quindi se adesso i tassi, il prime rate, il tasso primario in America è il 4,5% e voi siete un cliente solvibile, pagate 19 punti più 4,5, il 24,23,5% su quel debito. Se comperate, se fate la spesa con la carta di credito, spendete $100 e alla carta di credito ne date 123,5 quando avete finito di pagarlo. Quindi il costo è molto alto, è molto alto. Il margine di interesse del settore finanziario in America è colossale. Ho fatto un evento a Lugano, al Rotary di Lugano, e facevo vedere questa slide quanto il settore finanziario si tiene sull'intermediazione del PIL, i profitti delle banche sui profitti di Wall Street. Fatto 100 i profitti di Wall Street, di tutta l'industria americana, sei. Le banche se ne prendono il 27%, quasi il 30%. Cioè, voi capite che business è fare la finanza in America, no? Quindi il debito, è certo che è un sistema che se non ha il debito, quei profitti lì non li fanno il sistema finanziario. Quindi è tutto un gioco. Cosa ci porta questa tendenza? Ci porta in un bruttissimo mondo, ci porta in uno scenario che io, forse è una mia opinione, ma non sono l'unico che dice queste cose oramai, noi entriamo in un mondo dove il cosiddetto capitalismo diventa un monopolio della finanza e delle grandi società tecnologiche e basta, tutto il resto non conta assolutamente nulla. Quindi non è un capitalismo diffuso, è un oligopolio gestito da intermediari finanziari sempre più grandi che se vanno male vengono salvati dallo Stato, quindi un capitalismo statale quasi, se volete, no? Dove io posso fare attività di impresa a rischio tuo. Se faccio gli utili sono miei. Se va male, il rischio è nostro, cioè vostro. Quindi è un capitalismo malsano, nel senso che non è un capitalismo dove tu dici io sono un imprenditore, se mi va male fallisco, cazzo, mi portano via tutto. Lì invece di no, mi tengo gli utili, cioè i bonus e i profitti, e in più paghi tu. Cosa succede? Siamo arrivati a dei paradossi vergognosi. A un certo punto la SEC, che è la CONSOB, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari in America, circa 6 mesi fa ha emesso una direttiva dicendo le società quotate in borsa che rettificano gli utili di bilancio dopo averli pubblicati devono dire agli amministratori delegati di restituire i bonus che incassano su utili non realizzati. Cioè, io sono la General Motors, pubblico il bilancio, e questi sono casi numerosissimi, non stiamo parlando di casi rarissimi, se interviene la SEC a dire questo è perché succede quasi sempre, pubblicano il bilancio trimestrale, 30 marzo 2022, utili $10 per azione. Ci do l'operazione, bonus, va bene, ci sono stati bravi, to il premio per te, il premio per me, ce li dividiamo, passano un mese, oh, ci siamo sbagliati a pubblicare gli utili, non erano $10 per azione, abbiamo rivisto i conti, erano 8. Ah, oh cacchio, 8, eh sì, erano 8, ci dispiace. Però il trimestre dopo li riprendiamo, ah ok, va bene, 8, però l'utile te lo sei tenuto, l'ho messo in tasca il bonus. Ah, siamo arrivati a questi livelli qua, eh. Cioè, questo è il capitalismo nel quale io lavoro, e dicevo alla sessione del Rotary che ho fatto, dicevo, io lavoro in questo settore qua, devo dirvi che mi fa schifo. Per fortuna che sono arrivato alla fine della mia carriera, perché questo settore qua mi fa schifo. Questo settore finanziario mi fa schifo. Tutti i bilanci delle società quotate sono manipolati, sistemi contabili di vario livello per produrre utili che non ci sono. E chi non ha capito niente di finanza fino adesso ha capito tutto, perché era meglio non capire niente, no, piuttosto che capire queste robe qua. Era meglio vivere... Esatto. Per cui, no, sto dicendo, come torniamo al debito, no? A questo punto il debito diventa un privilegio per coloro che tirano l'indebitamento, costituiscono le grandi corporation come Apple, Amazon, ok, che vivono a leva e pagano l'1%, 2%, 3%, cioè il tasso di interesse di mercato, mentre per tutti coloro che lavorano per quelle società e che prendono il loro stipendio mensile e devono vivere di debito anche loro, il debito è il 25-30% all'anno. I ricchi si indebitano per investire, ecco, gli altri questo, per sopravvivere. Esatto, no? Quindi quando dico che noi andiamo verso, purtroppo per tutti noi, questa disuguaglianza che si sta creando, credo che sia molto difficile da ribaltare, francamente. Tutti parlano della disuguaglianza da anni, c'è una grossa, si è allargato il cosiddetto Gini ratio, no? Quello che viene calcolato per calcolare che distribuzione iniqua di reddito c'è in un paese. Siamo ai livelli estremi dagli anni 20, ma nessuno mica interviene per fare nulla. E non interverrà nessuno. Perché se tu intervieni a rompere questo meccanismo qua, viene giù tutto il castello. Viene giù tutto il castello. Quindi l'altro punto è che a fianco di questo settore finanziario che sta diventando sempre più dominante perché non può fallire, perché se tu non puoi fallire comandi tu, si affianca un settore ad alta tecnologia, quello dello smartphone, ok, che tutti voi avete in tasca, che serve a controllare tutto quello che fate. Se qualcuno di voi, non lo so, in questi ultimi anni ha avuto la possibilità di leggere quello che accade ai giovani che passano ore sui cellulari. Avete visto anche trasmissioni alla televisione delle implicazioni sulla psicologia dei ragazzi. Adesso Apple entra nel business del buy now, pay later. Compra adesso e paghi dopo. E chi è che utilizza questo meccanismo qua? Chi sono i più grandi utilizzatori degli smartphone? I ragazzi. Teenagers. L'obiettivo è trascinare già i ragazzini nel debito da piccoli. Tanto che succede? La Adidas vende la maglietta o le scarpe? Intanto prende i soldi. Se il ragazzino non paga, sono cavoli di chi ha erogato il debito, giusto? Il quale l'avrà cartolarizzato e venduto a un fondo pensione inglese, americano o europeo e si prenderà la perdita. Quindi la catena alimentare è questa. Da questo punto di vista, il nessuno può rompere il cazzo a questo cazzo di meccanismo. ti volevo fare questa domanda, ma molto esplicita, semplice. Dove, visto che d'altro mondo, e noi siamo una di quelle, ci sono delle sacche di resistenza contro questo mondo del capitale che ha un turbo nel consumismo mastodontico, tipo come dicevi tu con l'Apple, i vari smartphone, dicendo. Ma se realmente, rispetto a come nascono queste cazze di banche dal mio punto di vista, sempre di, cioè, dalla seconda guerra mondiale, no? Di come la tutela rispetto alla ricostruzione, ed è quello che sta succedendo oggi rispetto alle guerre internazionali, dove l'Italia e i 54 paesi nel mondo a esportare benessere, socialità e democrazia tra parentesi, no? Se realmente c'è, no, tornando a quelle che sono le nostre reali forze, no, come si è detto anche anni passati, che se tanta gente è tornata alla terra, ci sono stati finanziamenti della Comunità Europea e di vari fondi italiani, però tutta questa gente che coltivava realmente e andava anche oltre nella distribuzione, oggi è stata accapottata rispetto a quello che è il processo capitalistico turbo, no, che imprime un'oppressione mastodontica sui vari, nelle varie regioni dove ci sono queste cooperative agricole, no, che poi producono i vari alimenti che vanno nella nostra distribuzione, dove noi poi andiamo a consumare con le nostre tessere e altro. Un qualcosa che possa interrompere sta cosa? Sì. Oltre a fare sbandierare con striscioni, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. Ma ti dico, sì, ti rispondo molto facilmente, è una domanda facile, non difficile, purtroppo. Nel senso che tu devi capire che società della dimensione di Apple piuttosto che Amazon, le grandi multinazionali, pagano i politici europei e americani per non modificare le regole. E quindi, ad esempio, il governo democratico in America, quando è stato eletto da un grande movimento di spinta alla modifica di queste regole, no? Ma quando siamo arrivati al dibattito in Parlamento, in Congresso, per modificare certe regole, sono intervenute le grandi banche, sono intervenute le grandi lobby delle grandi società tecnologiche per pagare senatori che votassero contro questi provvedimenti. Ora, il problema è questo: tu potresti modificare questo equilibrio in un sistema democratico dove c'è qualcuno che ha una maggioranza significativa, perché se ad esempio chi è al governo ha il 60-65% dei voti, a spostare 15-16 punti facendo lobby è più complicato, è più difficile, no? Però noi viviamo oggi in una società a livello mondiale dove gli equilibri politici sono molto polarizzati, cioè in vari paesi gli equilibri sono veramente nei parlamenti di pochi seggi di maggioranza a favore di uno schieramento rispetto a un altro. A pagare 5 persone che ti votano contro ci pieghi pochissimo a convincerne 5, magari se ne devi convincere 30 è più complicato. Quindi in America 3 senatori democratici tengono in scacco qualsiasi modifica. La stessa cosa può essere un esempio anche, non lo so, prendiamo un altro paese come l'Italia, dove c'è una grossa polarizzazione, no? C'è un grosso equilibrio tra destra e sinistra, non c'è mai una maggioranza significativa da una parte o dall'altra, e tu tutte le volte per fare delle modifiche a certe cose sono lotte molto complicate, dove devi trovare dei compromessi che non portano mai a significativi cambiamenti. Quindi il motivo per cui noi non riusciamo a cambiare le regole del gioco, anche se davanti a tutti sono da cambiare, è perché in questo momento, in un sistema così equilibrato, così polarizzato, chi ha i soldi per pagare, paga perché si mantenga tutto così. Capisci qual è il problema? Quindi... No, no, ma tutti siamo abbastanza nauseati da questo modello, no? Però io posso dal mio interno, io lavoro in questo settore e faccio un casino di conferenze, tantissime conferenze faccio, tantissimi eventi anche online, e la mia mission, diciamo così, è far vedere i mali di questo sistema, perché ho le competenze per descriverlo da dentro, capite? Ma la maggior parte dei miei colleghi non va a dire queste cose perché gli fa comodo questo sistema qua, no? Perché è un sistema assistito. Cioè, se io per guadagnare i miei soldi devo prendere delle decisioni valutando i rischi e cercando di fare le cose in un certo modo, in un sistema che funziona così, come diceva Massimo Monti all'inizio, le banche se ne fregano di valutare che decisioni devono prendere, con quanto rischio, che poco rischio, tanto rischio, tanto paghi tu, che me frega. Quindi ti trovi addirittura, io li prendo in giro i miei colleghi, no? Gli dico: voi siete dei dipendenti statali, non siete degli operatori finanziari. Fate finta di valutare i rischi sapendo che tanto, anche se non li valutate o non siete in grado di valutarli, paga lo Stato, perché ti deve salvare. Quindi io già faccio il mio lavoro da questo punto di vista. Però è molto difficile che in questo contesto storico, sì, francamente, riusciamo a modificarlo. Ecco, questo purtroppo è forse un pessimismo della ragione, però da quello che vedo purtroppo è molto complicato modificarlo. Stai in piedi. Io ho una domanda. Ah, vieni. Dov'è? Non mi piacciono dei soldi da parte. Come li trasferisco? Ma io adesso quello che consiglio in particolare ai miei clienti è di avere oro in portafoglio, di avere oro, sì. Vabbè, non è che puoi mettere tutto lì, però diciamo di avere una buona percentuale di oro, sì. Sì. Silenzio per favore, se no non si sente. Vuoi venire qua? Perché se no. La crisi americana dell'auto si vive giorno dopo giorno, scrivendo sui giornali. Negli anni dopo, gli americani hanno in qualche modo rovesciato sull'Europa molti dei loro delle misfatti che hanno fatto loro nel loro settore. Io parlo del settore dell'auto. Eh sì, perché se no. Voglio chiederti adesso che nel mirino c'è Deutsche. Parlato di Credit Suisse che ha preso, che è stata messa nel mirino, adesso nel mirino c'è Deutsche Bank, che non è Svizzera ma è Europa. Quindi, come cittadini europei, visto che gli americani già 10 anni fa ci hanno trasferito a noi un sacco di perdite, dobbiamo temere che arrivi in Europa, che ok, la Svizzera è Europa però è fuori dalla UE. Come cittadini europei e nella UE ci dobbiamo aspettare che, visto che nel mirino c'è Deutsche, perché Deutsche è la Germania e quindi è Italia e Francia. Ecco, qual è la situazione in questo senso? Allora, per quello che riguarda la situazione di Deutsche Bank, per quello che è la mia conoscenza personale, visto che sono andato a vedermi anche il bilancio di Deutsche Bank, le problematiche potenziali sono sempre sull'attività della banca in America, però devo dirvi che non sono così grandi come quella di Credit Suisse. Cioè la posizione di Deutsche Bank in America è molto più piccola, parliamo di un centinaio di miliardi di dollari complessivamente rispetto ai 600 miliardi di dollari di Credit Suisse di attività bancaria, che in questo momento non creano una particolare preoccupazione. Quindi quello che è successo l'altra settimana è stato un attacco speculativo alla Deutsche Bank da parte di un fondo che ha fatto un'operazione in derivati mirata su Deutsche Bank, semplicemente con il ragionamento: se Credit Suisse, che è una banca di questo tipo, ha avuto queste perdite, un'altra grande banca che potrebbe averle potrebbe essere Deutsche Bank. Però andando a vedere i numeri di bilancio, se non sono falsi, diciamo, la dimensione dell'eventuale problema è francamente molto gestibile, molto gestibile. Quindi non vedo un rischio. Però è chiaro che se noi abbiamo un avvitamento della crisi in America, per i motivi che vi ho detto prima, che riguardano molte più banche di quelle che sono saltate, perché il problema riguarda tante banche, se dovessimo avere un avvitamento della crisi, aspettiamoci un contagio anche in Europa, perché come voi sapete le banche internazionali sono sempre interconnesse tra di loro, quindi anche se non hanno fatto certe cose potrebbero avere rischi di controparte che vengono in qualche modo a intaccare anche i bilanci delle banche europee. Al momento devo dire non penso che andiamo a finire in una situazione così. Quello che penso è che la strategia è quella di intervenire a tamponare con soldi pubblici per impedire una crisi come nel 2008. Ma questa strategia comporta un problema. Comporta che noi entreremo in una situazione di stagnazione dell'economia. Perché se tu hai le banche in difficoltà, non erogano più il credito, capisci? Se non erogano il credito a un'economia americana che vive di debito, l'economia americana non cresce e tutto il sistema economico internazionale si incarta dietro l'economia americana. E quindi il problema è che tu puoi evitare la crisi, perché i germi della crisi sono già evidenti, la puoi evitare per evitare un problema come nel 2008, l'hai capito, adesso non lo vuoi più accettare, quindi intervieni subito, però occhio, perché questo modo di fare non ti porta a ripulire il sistema dai casini. Nel 2008 è vero, è esploso tutto, però le banche si sono ripulite dai casini in pochi giorni. Tu tenendo lì tutto impedisci alle banche di uscire dalla crisi, e la crisi dura magari 10 anni prima che ripuliscono i bilanci. Allora questo frena tutto il credito all'economia internazionale e lì chiaramente noi ne risentiamo economicamente. E se va bene, se non andiamo in una recessione cattiva, diciamo così, avremo sicuramente un lungo periodo di stagnazione economica. Questo è il punto. Va bene, adesso volevo solo dire una cosa adesso, perché voleva dire due cose anche Sergio. Allora, per quella ragazza là di prima che voleva sapere come investire, allora può stare tranquilla, perché la prossima volta, seguendo un'indicazione che ci venne data da Carlo Mars, ci occuperemo immediatamente di prendere noi la banca, quindi lei può star tranquilla. Tu pensi già ai benefit che avrai come presidente della banca espropriata? No, voglio dire, bisognerebbe parlare un po' di politica. Mi vengono in mente subito una cosa piuttosto grossa. Allora, questo sistema qua, lui ha dimostrato molto bene, molto chiaramente, non funziona. Non può funzionare, quello è il punto. E quindi, per esempio, il ruolo delle banche centrali che ci viene raccontato possono essere quelle che regolano e che rimettono a posto tutto, le banche centrali sono sempre più impotenti, giusto? quello che mi domando, questa cosa riguarda comunque, chiamiamola così, l'area del dollaro. Se si dovesse verificare quello che secondo me in parte è in atto, cioè che una parte del mondo voglia sottrarsi all'area del dollaro, India, Cina, Russia e sappiamo quanti altri paesi, e che possono costituire, non so se l'area del renminbi, insomma un'altra, a parte il fatto che questo secondo me sarebbe quello che scatenerebbe la guerra mondiale. Giusto. Cioè ci possono essere qualunque questione di carattere territoriale, possiamo ricomporla, ma questa cosa qua sono sicuro che l'America... Condivido. Ecco. Però voglio dire, è un'ipotesi su cui, come dire, si sta secondo me già lavorando, insomma adesso non so che punto sarà, eccetera. Quindi questa è comunque una cosa da mettere lì. L'altra cosa è se riusciamo in qualche modo a frenare, a bloccare questa cosa, eccetera. Purtroppo, come dire, le forze politiche proprio non si sono mosse su questo. Negli Stati Uniti, secondo me, qualche barlume c'è, ma voi conoscete il Working Families Party? Allora, questo è un piccolo partito che si sta costituendo. Si chiama partito, però in realtà si sta costituendo all'interno del Partito Democratico. La personalità più, come dire, popolare di questo partito è la senatrice Elizabeth Warren, sì, che è una tosta, sì, è una delle pochissime, diciamo, che ha affrontato anche nelle questioni, nelle commissioni parlamentari, no, questa questione qua. È un piccolo partito, però questo partito incomincia a porre, come dire, il problema se il bipartidismo americano possa ancora essere tollerato, tollerabile. Tant'è che sapete che esistono adesso tre senatori indipendenti. Uno è Bernie Sanders, un'altra mi sembra che sia invece una di destra, e la terza è un personaggio che, se andate su YouTube, vi consiglio di vederlo, che si chiama Tulsi Gabbard, una bellissima donna, che, come dire, combatte il bipolarismo americano. Cioè, sto forse, sì, tema qua non funziona più. Non so come andrà a finire, ma comunque. L'altra cosa che vi segnalo, in Germania invece, è stato costituito una cosa che si chiama The BlackRock Tribunal. Allora, BlackRock è il più grande gestore di fondi mondiale. Ha un'importanza politica fondamentale. Vi faccio un esempio. Il responsabile di BlackRock in Germania è un signore che si chiama Friedrich Merz. Questo signore, che all'inizio era semplicemente un uomo della finanza, oggi è diventato il presidente della CDU, cioè sta prendendo in mano il Partito Democratico Sociale, Cristiano Democratico Tedesco, e sta riportando la Germania su una posizione totalmente atlantica, esattamente come aveva fatto Adenauer. Cioè tutto il lavoro che la Germania ha fatto in questi anni per, soprattutto la Merkel, ma soprattutto nel primo mandato della cosiddetta Ostpolitik, no? Di avvicinarsi, tant'è che lei aveva un rapporto persino con Putin buono, sia perché lei parlava russo, perché Putin parlava il tedesco, no? E che ha portato a Gazprom, che ha portato a Nord Stream, a tutte queste robe qua. Era una tedesca dell'est. Questa cosa qua sta cambiando completamente, per cui, come dire, la possibilità che esista attorno alla Germania un'Europa con un minimo di autonomia, secondo me, si sta allontanando sempre, sempre di più. E la Germania sta ritornando purtroppo a quella che era il livello di Adenauer, cioè una semplicemente pedina della NATO, purtroppo. Allora, lì è nato questa cosa che si chiama BlackRock Tribunal. Vi ricordate il Tribunale Russell? Loro semplicemente fanno queste sedute pubbliche, l'ultima l'hanno fatta a Berlino a gennaio, devo dire molto frequentate, per cui hanno incominciato almeno a mettere il fuoco sotto il culo anche i politici, dicendo: ma allora sta roba qua, no? Perché voglio dire, sto BlackRock tra l'altro è azionista di parecchie, quasi tutte le grandi società, sì, d'azioni tedesche. Queste sono le piccole cose, i piccoli vagiti, diciamo, di un tentativo di reagire a questa, come dire, a questo fatto che non viene mai affrontato nessun partito politico. Questo è il punto. Cioè, in quale programma, dico del PD ma di altri partiti, voi trovate questo problema qua di spiegare alla gente che questo sistema finanziario è un sistema disastroso? È vero. E chiudo raccontandovi un solo episodio che nessun giornale ha riportato. Allora, in Friuli, Venezia Giulia, esistono delle imprese di cosiddetta eccellenza, soprattutto nella meccanica pesante. Una di queste si chiama Cimolai, è un'impresa familiare, però è un'impresa, diciamo, per dirvi, ha costruito le paratie del canale di Panama. Sono quelle imprese italiane, come dire, che fanno delle cose a livello mondiale eccezionale, che quindi, come dire, dal punto di vista industriale, sono uno dei nostri patrimoni. Questa impresa qui ha circa 800 milioni di ordini, quindi sta benissimo, ed è fallita. Perché? Perché ha dato 500 milioni da gestire a un broker che li ha investiti in derivati e li ha persi. Adesso il tribunale gli ha consentito il concordato preventivo, eccetera, ma cioè, vedete, un'impresa d'eccellenza che viene, può essere distrutta da un'operazione finanziaria. Cioè, è una roba che uno non ci può credere a questa roba qua, no? Questo succede per dire la capacità devastante e distruttiva che hanno queste, come dire, quella finanziarizzazione dell'economia. Ecco, tutto qua. Che parla? Ivo? Vieni qua però. No, no, ci ho soltanto che questo esempio qua mi porta un po' adesso i problemi che ci hanno accompagnato da GKN. C'erano 400 lavoratori, adesso man mano, per bisogni di cibo, se ne stanno andando, però la lotta va avanti e andrebbe supportata anche da noi come concreti, insomma, riuscire a parlare, riuscire a trasmettere un po' questa storia qua, perché lì Merrose, questo fondo, cosa fa? Smetto la fabbrica, le rende. Fondi di private equity. Esatto. Sì, sì. Ivo. Io volevo. Finora abbiamo parlato del debito che si autoalimenta nel sistema, però la grande cassetta di sicurezza negli ultimi 30 anni è stata la possibilità per gli americani di trasferire produzioni in Cina o in altri paesi dell'Asia e poi intervenire, finanziarizzarsi, deindustrializzarsi, finanziarizzarsi e dopo di questo in pratica è successo che grazie al supersfruttamento degli operai cinesi o degli altri paesi hanno potuto fare anche sovrapprofitti Apple e tutti gli altri settori della cosiddetta nuova economia. Ma al contempo questo ha portato un'enorme massa di debito americano nelle mani dei cinesi e anche di un'altra parte dell'Asia. Questo è già successo 30 anni fa col Giappone. E il Giappone, pur essendo detentore di 2.000 miliardi di dollari allora, 30 anni fa, non poté dire agli americani adesso ci pagate. E hanno, il Giappone entrò in stagnazione, non stiamo certo a discutere, eccetera, e è rimasto sotto l'ala americana alla sua maniera, salvo liberarsi in futuro, ma ci sono dei problemi con la Cina, eccetera. Ora però, questa enorme massa di debito estero americano, che poi è lo stesso massa di debito estero europeo, se vogliamo, in misura minore, ma è enorme, è nelle mani della Cina. Ed è uno dei motivi della possibile guerra mondiale. Cioè, la Cina non può realizzare quel debito, ma soprattutto gli americani non vogliono pagarlo. E stanno facendo, in questo momento, stanno dando l'esempio di quello che può fare la finanza americana finché lo può fare. Primo, non pagare. Secondo, sequestrare. Stanno sequestrando i 400 miliardi dei russi. 600 miliardi. Sì, 600 addirittura. Ma l'hanno già fatto con l'Iraq, l'hanno già fatto con altri paesi. Quindi la questione del debito diventa, e ne dovremmo parlare in altre riunioni, perché fino ad ora si è visto il debito nel sistema, ma il debito porta anche fuori dal sistema, nel senso che fa craccare il sistema, e porta alla guerra. La guerra come soluzione per l'uno o per l'altro di realizzare i propri crediti se ne hai la forza, o di non pagare i debiti e restare sul mercato se ne hai la forza. Ma la forza è militare, non è più soltanto economica. Lo pongo solo come questione di dibattito. Dunque c'è volevo prima risponde Massimo. No, prima risponde Massimo, poi dopo. Allora, quello lui parlava del Giappone. Il Giappone a un certo punto negli anni 80 aveva un surplus commerciale con gli Stati Uniti di 500 miliardi di dollari. Gli americani hanno svalutato nello stesso periodo il dollaro di altrettanto. Per cui praticamente negli anni 80 i giapponesi hanno regalato 500 miliardi di merce agli americani. Il debito americano non sarà mai pagato. Il debito americano è talmente grande, ma non c'è nessuna intenzione. Abbiamo parlato l'altra volta, no? Nel 1971 non diventa più un sistema basato sull'oro, diventa un gold, non più gold standard ma dollar standard, eccetera. Le riserve dei paesi, di qualsiasi paese del mondo in dollari diventano sostanzialmente il finanziamento al debito americano, no? Quindi che cosa oggi fa, cos'è il 20% che ha in mano la Cina del debito americano? No, molto meno adesso. È molto meno, perché adesso chiaramente la Cina sta cercando di far partire una volta per tutte l'economia interna e quindi non ha più un surplus, fa investimenti per convincere i cinesi a avere un'economia di consumo. Quindi comunque il ragionamento che sta alla base dell'esistenza del dollaro, la potenza del dollaro, è un ragionamento di tipo militare, per cui è il gatto, cioè qual è la predominanza oggi degli Stati Uniti? La parte tecnologica e la parte militare, che poi sappiamo hanno molte interconnessioni. Quindi poi passo la parola a Maurizio. Il ragionamento militare è il ragionamento primario oggi come oggi. Oggi l'America ha la possibilità di, finanziandosi attraverso i depositi che gli altri fanno sul loro debito, di finanziare l'apparato militare più costoso e più potente del mondo. Quindi fondamentalmente l'apparato militare americano è finanziato coi soldi degli altri. E fino a quando questa sarà realmente la situazione, cioè di dominio, eccetera, probabilmente non se ne uscirà. Però è chiaro che questo è un discorso tirato per il lungo, non è un discorso che è nato ieri. L'America è in guerra dal 1776, da quando è stata costituita, non è mai stata in uno stato di pace. Ha sempre comunque avuto una o più fronti su cui... E poi magari lo affrontiamo la prossima volta, il discorso di quanto il debito pubblico sia nato storicamente per finanziare le guerre e quindi da lì il resto. Sì, ecco, io riguardo questo argomento, chiaramente qui, come si può notare, come diceva anche il professor Bologna prima, c'è una sovrapposizione tra finanza e geopolitica. Perché quando hai una finanziarizzazione del sistema mondiale, poi succede che finanza e geopolitica si incrociano. Allora, il Giappone ha finanziato il debito americano come gli americani volevano, perché il Giappone è un alleato degli Stati Uniti. E quindi l'America sul Giappone praticamente ha un determinato potere, tanto quanto l'America ha un potere sui paesi europei della NATO. Con i cinesi però è diverso, perché i cinesi non sono alleati degli americani. Quindi tu hai un paese come la Cina, la seconda economia del mondo, che ha il 5%, 6%, attualmente sta calando, del debito americano. Cosa vogliono fare i cinesi? I cinesi hanno creato 3 anni fa la più grande area economica di libero scambio in Asia, con tutti i paesi dell'Asia, una forma di area economica di libera circolazione delle merci come l'area euro, di cui fa parte anche l'India, che poi con gli scontri che ci sono stati in Ladakh ha fermato un attimo l'ingresso in quest'area economica, fa parte l'Australia, fa parte la Nuova Zelanda, quindi anche paesi schierati con gli americani. E lì che cosa vuole fare la Cina? La Cina vuole creare un colossale mercato che scambia merci pagando in renminbi, che è la moneta cinese. E questo è il motivo principale per cui gli americani stanno alzando la tensione su Taiwan, stanno cominciando a intraprendere con delle scuse il famoso contenimento cinese. Cos'è il contenimento cinese? Contenimento cinese è un contenimento tecnologico, non voglio che tu hai certa tecnologia perché potresti costruire degli armamenti che rivaleggiano con la mia supremazia militare, ma tu puoi anche essere in tempo di pace, lasciando perdere l'ipotesi di una guerra, tu in un'ipotesi di mondo in pace, basato sul libero scambio, sei una minaccia per la sovranità del dollaro. E il dollaro a me serve, americano, perché siccome io vivo sul debito, il mio debito è la tua riserva valutaria. Quindi più faccio debito, più hai riserve valutarie. Se io perdo la sovranità valutaria del dollaro, che devo spartire con la Cina, sono costretto a fare meno debito. E tutto si ferma. E se devo far meno debito, allora la mia economia non riesce più a crescere come adesso. Perché se i cinesi, adesso qui c'è un casino in ballo che voi non potete immaginarvi, i cinesi, cioè io leggo tantissime riviste di geopolitica, perché ovviamente con la situazione che c'è non puoi non sapere certe cose. I cinesi praticamente, gli americani stanno andando in Asia a chiedere all'Australia, comprami sottomarini nucleari, te li diamo noi, no, li volevamo dai francesi, no, adesso dai francesi non li compri più, te li diamo noi, viene fuori un caso diplomatico, vanno dalla Nuova Zelanda a dire alleati, facciamo una NATO in Asia per attaccare i cinesi in caso di conflitto, e questi gli rispondono, ma sai, io però, cioè, governo australiano, io Australia con la Cina c'ho un interscambio commerciale del 60% del PIL. Cioè che faccio? Mi metto a fare la guerra commerciale alla Cina? Cioè gli australiani non sono come gli europei supinati, no? Che ti dicono metti l'embargo alla Russia, metti l'embargo all'America, metti l'embargo a questo e a quello e noi firmiamo. Gli australiani è caduto il governo. In Australia è caduto il governo. Gli americani sono andati dal governo precedente e hanno detto tu devi firmare sta roba, la popolazione australiana ha fatto cadere il governo. La Confindustria gli ha detto guai a te se fai quello che dicono gli americani. Quella è gente con le palle, chiaro? Difatti gli americani non riescono a costruire la NATO in Asia, sono andati dagli indiani, gli hanno detto facciamo un po' di esercitazioni militari assieme, no? Far vedere che ai cinesi che gli spariamo addosso appena ficcano il naso fuori. Sì, sì, facciamole pure, però noi accordi commerciali per boicottare la Cina non li firmiamo, neanche un impegno militare a fare cose anti-Cina, nel senso che se voi ci volete proteggere ci va bene, vi ringraziamo se la Cina ci attacca, ma noi che andiamo ad attaccare i cinesi no. Quindi la Cina punta a introdurre il renminbi, adesso sono andati in Arabia Saudita, gli hanno detto, cari arabi, voi ci vendete il petrolio? L'abbiamo pagato sempre in dollari, adesso ve lo paghiamo in renminbi. Vi va bene? E gli arabi hanno detto, certo, messaggio agli americani. Certo, ci va benissimo. Anzi, facciamo una cosa, la compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita compra il 10% nella compagnia petrolifera cinese. L'Aramco ha comprato il 10% della Sinopec, ok? Come se i cinesi comprano il 10% dell'Eni. Adesso di cosa parliamo? Allora, qual è il gioco? Il gioco è, tu hai un paese come l'America che ha la sovranità valutaria mondiale, detta la politica monetaria, fa il debito che vuole perché tanto glielo finanzi tu e decide quanto te lo paga. Con questo debito cresce, finanzia gli armamenti, finanzia la sua geopolitica. Se i cinesi creano un'area valutaria in Asia che ha come moneta di scambio la divisa cinese, l'Asia fa il 50% degli scambi commerciali del mondo. Solo l'Asia, eh? Solo l'Asia. Tutti gli scambi commerciali del mondo, il 50% li fa l'Asia. Se tutti quegli scambi commerciali lì si fanno in rimimbi, o comunque tutto lo scambio commerciale della Cina si fa in rimimbi, non in dollari, il dollaro prende una botta della miseria. Gli americani non riescono più a finanziarsi come prima, perché a quel punto i cinesi diventano un competitor sul mercato, capite? Cioè, mentre oggi l'America dice mi servono 10 miliardi di dollari questo mese, emetto un'obbligazione e tu me li compri, domani anche i cinesi arrivano e dicono ma quant'è che gli dai tu? Gli americani dicono io ti pago il 5, arrivano i cinesi e dicono io ti pago il 5,5. Che facciamo? Capite dove si va a finire? È per quello che gli americani hanno alzato adesso tutta la tensione sulla Cina. Che gliene frega di andare a difendere Taiwan agli americani, che non la potrebbero mai difendere? Come fanno gli americani a difendere Taiwan, che è un'isola a 100 km dall'esercito cinese? Da 500.000 uomini pronti lì a 100 km a fare un'invasione. Come fanno gli americani a tenere una posizione così? È impossibile. Quindi è tutto un gioco per cercare di creare un movimento anti-Cina per isolare la Cina. Non escludo che qua, se andiamo avanti così, la guerra non si fa neanche sparandosi colpi di cannone. La guerra si fa finanziaria. Ti dico, sai qual è la novità? Io adesso isolo la Cina finanziariamente e dico alle aziende americane che non possono più investire in Cina. Sì, infatti le aziende americane stanno cominciando ad andare in India, perché dicono, la Apple dice, se qua questi... No, perché la Apple è andata dal governo americano e ha detto non fate ste robe, perché noi lì abbiamo il 90% della produzione, ammazzate la Apple. La Apple agli Stati Uniti serve, perché il Pentagono, la CIA e l'FBI, tutta la popolazione americana la controllano attraverso i telefonini. Cosa li vuoi dare ai cinesi? Infatti hanno buttato fuori Huawei subito, no? Adesso TikTok. Cioè, adesso buttano fuori i social network cinesi, perché tu non vieni qua a controllare i miei dati. I cinesi l'hanno fatto subito. Hanno detto, società tecnologiche americane, qua i dati li date al governo cinese. Quindi c'è la guerra dei dati, ognuno vuole controllare la sua popolazione per evitare influenze esterne sull'opinione pubblica. Quindi la guerra si può fare finanziariamente, blocchiamo le riserve valutarie, prova a bloccare quelle della Cina, perché scateni una crisi finanziaria mondiale. Perché un conto è bloccare le riserve valutarie della Russia, ma se tu blocchi quelle della Cina, collassa il sistema, perché poi la Cina ti fa azioni di rappresaglia su tutte le società americane in Cina, e sai quante ce n'è? Quindi cioè, diciamo che la situazione è molto complessa e la competizione valutaria è partita, però devo anche aggiungere che i cinesi non vogliono sostituire il dollaro, non gliene frega assolutamente niente. Loro vogliono intaccare il privilegio del dollaro, ma non lo vogliono sostituire. Perché? È perché fare la banca centrale del mondo, avere la divisa di riserva del mondo, è una grandissima rottura di palle. Perché tu devi continuamente stampare moneta per tenere in piedi un sistema che ti deve finanziare, che ha bisogno di debito continuamente. Quindi perdi il controllo delle variabili monetarie e i cinesi non vogliono. I cinesi sono contro il sistema finanziario americano. Non vogliono un sistema finanziario come quello americano che gli destabilizza il controllo economico, no? Quindi se loro avessero come divisa di riserva il rimimbi nel mondo, cioè viene fuori un casino, perché dice: oh, cara banca cinese, o tu stampi moneta, perché io ho bisogno di far debiti in renminbi, se no, e i cinesi non vogliono. Quindi c'è un equilibrio, capite, su queste cose, che ha queste regole del gioco attualmente. Grazie. Allora, Francesco. Allora, le ultime cose che diceva Maurizio aprono uno scenario enorme sulla guerra, e questo volevo tornare però all'argomento iniziale, che Maurizio ha chiuso il suo intervento con una cosa secondo me che è fondamentale per capire quella che è la situazione dell'attuale crisi finanziaria che c'è. Avremo una situazione in cui gli stati, che sono sempre comunque uno strumento per privatizzare i profitti e socializzare le perdite nelle varie fasi, ma interverranno per bloccare la crisi, quindi salvare le banche dalla crisi finanziaria, e avremo una fase di stagnazione economica, oppure le fanno andare, come è stato fatto nel 2008, nel 29, eccetera. Però avremo un deflagrare della crisi. Il discorso è grosso. Io penso che bisognerebbe, anche per capire fino in fondo tutta questa problematica, muoversi da un fatto: che se c'è tutta questa finanziarizzazione è perché l'economia reale, concreta, è già in crisi da un pezzo, e non va da nessuna parte. I tassi di profitto sono bassissimi, e quindi il capitalismo, per investire, riprodursi, andare avanti, va in finanza. È vero che noi siamo nella situazione che si fa molto, come gli Stati Uniti, il cuore finanziario degli Stati Uniti, e il problema è, politicamente parlando, rimarrà lì o avviene qui? Le banche qua sono più sicure. Io sul fatto che le banche qui siano più sicure non ci credo, e non ci credo per un motivo di questo genere. Massimo, nel suo intervento, ricordava l'intervento fatto da Clinton nel 99 sulle banche americane, pressoché contemporaneamente in Italia veniva abolita la legge bancaria del 36, che aveva delle regole ancora più rigide per impedire che le banche facessero quello che stanno facendo oggi. Una volta una banca non poteva investire in derivati, in titoli, eccetera. Doveva esserci la banca che aveva i depositi a breve termine e dava solo i soldi ai correntisti, quella che faceva solo prestito a breve termine, quello a lungo termine. È stato fatto saltare tutte. Modello anglosassone, le banche fanno quel cazzo che vogliono senza regole. Scusa se ti interrompo, ma forse è proprio perché l'economia non va da nessuna parte. Le banche, attraverso finanziando l'economia, non fanno profitti, non crescono. Si appropriano di profitti, ma si intascano di rendita finanziaria. Non hanno più la dinamica di crescita sull'economia, quindi cominciano a fare un altro mestiere, anzi sono ben dentro un altro mestiere. Secondo me è sempre lo stesso di prima, cioè nel senso che avevano meno peso, non è che prima aiutassero l'economia, si appropriavano di una quota di plusvalore prodotto, però era un'altra fase del capitalismo, si è finanziarizzato e fanno queste cose. Le fanno in Italia una profondità mostruosa, che dire oggi quante derivati hanno in pancia Intesa, Unicredit, eccetera, io penso che sia una cosa difficile. Poi abbiamo Basilea, però Basilea non ha impedito le banche venete. Le banche venete sono state acquistate da Intesa per un euro, cioè qualche giorno prima, non proprio, adesso non mi ricordo la data, i verificatori, le famose aziende che fanno le certificazioni, sono andati a dire che andava tutto bene, come hanno fatto per Silicon Valley Bank. Stessa identica cosa, le aziende sono sempre quelle che gestiscono le strutturazioni, sono anche quelle nelle banche. L'esperienza personale molte volte vale poco. Io ho lavorato in una banca, ho avuto questa fortuna, sfortuna diciamo, di lavorare per una società che facesse attività socialmente distruttiva, antisociale al massimo. Gli ultimi anni ci hanno passato, io lavoravo per le aziende, a rompere i coglioni, a vendere derivati su derivati. Io non ne ho mai venduto uno, ma sono uno cattivo, ho potuto rompere i coglioni, non ho mai fatto carriera, questa cosa non l'ho fatta. Mi sono rifiutato sempre di fare questa cosa. Però quanto è stato venduto è una cosa spaventosa, come quando tu lavoravi con la gente comune, con il mercato retail, dovevi vendere determinati tipi di titoli. dai titoli di Stato argentini, queste cose, e c'è tutto questo debito che è cresciuto. Ce l'abbiamo in tasca noi, ce l'hanno in tasca le aziende, ce l'hanno in tasca gli Stati. Si parla di triliardi di dollari di derivati che sono in giro. Le aziende hanno derivati che erano quelli più semplici che facevano fare, di cui parlava Sergio prima, erano quelli sui tassi di cambio, e che facevano fare quelli sul rialzo dei tassi di cambio. Mentre i tassi erano fermi, le banche ci hanno guadagnato una cifra spaventosa. Adesso che i tassi salgono c'è qualche piccolo problema, e quei pochi che avevano fatto il contrario magari ci guadagnano, ma le banche ci perdono. Ma questa cosa arriverà al dunque. E il dunque è che questa cosa è destinata a saltare completamente, perché il sistema finanziario è una cosa che è marcia, che non crea, che è una cosa che distrugge giorno dopo giorno. E abbiamo delle esperienze concrete che non sono quelle che si richiamavano prima. Faccio esempi per capirsi anche un ambiente che è più vicino alla nostra esperienza. Se tu vai a fare oggi un picchetto stradale, ti danno una multa, una pena pecuniaria, se non la paghi, finisce sull'album dei cattivi pagatori, che quando tu vai a chiedere di pagare a rate una lavatrice, ti diranno col cazzo, perché sei sull'album dei cattivi pagatori per 5 anni e non puoi pagare. Questo è anche un altro aspetto della finanziarizzazione secondaria, ma che noi abbiamo avanti. Io l'ho vissuto iniziando a vedere con le lotte della logistica questo tipo di cose che iniziava a saltare fuori. Ma sta saltando fuori tutto questo, e noi abbiamo un problema centrale di questa finanza che va chiusa. Oggi è un discorso del tutto astratto, eccetera. L'unica cosa, e chiudo dicendo, che abbiamo una fortuna, che non possono andare avanti, non stanno andando avanti. È un'agonia. Sono riusciti sotto il Covid a rimandare nel tempo questa crisi, ma questa sta arrivando al dunque. Se salta, salta fino in fondo. Collegato al nuovo disordine mondiale, al discorso della guerra. Qui è vero, sarebbe grossissimo il renminbi sostituisse il dollaro, come non ci è riuscito l'euro, ma probabilmente in questa fase pacificamente non ci riesce, nessuno ci può riuscire in questa fase e in questo contesto, ma non è più possibile questo equilibrio politico, finanziario, economico, è finito. E noi dobbiamo, ci piaccia o non ci piaccia, perdere le sicurezze e sapere che non va avanti così. Mi sembra giusto iniziare a discutere che non è più quello, che non è quello che ci raccontano, che dietro l'angolo, da un giorno all'altro, ci può essere il tracollo delle banche d'Italia, perché ci raccontano che sono solide. Ma noi ci possiamo trovare, saremo tutti, penso, molto rassicurati di sapere che se abbiamo risparmi di 100.000 euro in banca, non verranno toccati se sono su una banca sola, però immagino che ci riguardi molto da vicino come cosa. Però è questo lo scenario che abbiamo di fronte. La finanza è arrivata al termine della cosa. Sì, sì, l'impressione è la fine corsa. Bene. È proprio la fine corsa. Cioè, come dicevi tu, nel momento in cui tu per far crescere l'economia di un euro, di un dollaro, devi spendere 7 euro di debito, significa che il cavallo non beve più, come diceva Keynes, no? Gli metti un sacco d'acqua, ma comunque l'economia non, nel momento in cui tu in buona sostanza hai ucciso i consumatori, perché li hai praticamente messi nella condizione che o crescono nel debito oppure non possono consumare, hai creato un sistema per cui la persona che ti serve come consumatore non esiste più, perché l'hai messo sul lastrico. L'hai di... Un paradosso: noi dovremmo prendere sempre meno di salario e spendere sempre di più. Buy now, pay later. Come si dice? No, ma diventare adulti vorrà dire, la prova di diventare adulti diventerà il fatto di quanto sei indebitato. Cioè, ci sarà una soglia oltre il quale finalmente entrerai nella piena. Comunque Massimo ha spiegato che dobbiamo essere ottimisti, perché se alla continente di Illinois c'era quel signore che hai conosciuto, alla BCE c'era la Lagarde. Ecco, vabbè, lasciamo perdere. Ma oltre che quello che ha preso la mazzetta, il capo operativo, che fece un discorso al mio corso dicendo viva l'America, era appena stato eletto Reagan il giorno prima, eccetera eccetera, l'Italia non è una democrazia, siamo noi la vera democrazia, eccetera, per cui ci fu un parapiglia tremendo e ebbi da dire, dopodiché mi suggerirono di non proseguire con la banca, che la mia carriera non sarebbe stata facilissima. Il signore 6 mesi dopo fu arrestato anche lui perché aveva finanziato la costruzione di una sua, della sua casa con dei fondi che aveva sottratto alla banca. Per cui ecco. Il ragionamento del capitalismo criminale, che magari non come etichetta generale, ma che la criminalità comunque arrivi e si infiltri nelle cose più... Volevo solo dire una cosa a proposito di cambiamenti di moneta. Mi è venuto in mente che Saddam Hussein nel 2000 decise di passare a farsi pagare il petrolio in euro e nel 2001 sappiamo che cosa è successo. Poi ci fu Abramo Lincoln e John Fitzgerald Kennedy che decisero che non sarebbe più stata la Federal Reserve a emettere moneta, ma direttamente lo Stato, quindi il governo americano. Abramo Lincoln lo sappiamo come è finito e John Fitzgerald Kennedy pure. Per cui è vero che arriveremo a una sistemazione pacifica, ma non ne sono convintissimo. Ecco, le guerre finanziarie, poi ogni tanto arriva qualcuno che spara, ecco. Allora, no, l'ultima roba, tanto per ricordare, poi la riprendiamo magari la prossima volta, credo che tutti debbano tenere presente questo fatto, cioè che l'unico Stato che applica alla lettera l'ideologia maoista sono gli Stati Uniti d'America, perché è l'unico posto dove il potere nasce sulla canna del fucile. Fino a che nessuno riesce a mettere in dubbio questo fatto, l'unica cosa è quella che diceva Francesco prima, cioè che ci avviamo a questa agonia dentro questo disordine mondiale che si amplifica. Adesso basta, perché dobbiamo anche fare questo brindisi per ricordare che sono 25 anni che Moroni se n'è andato. Di un fatto che è successo nel 1893 ed è il fallimento della banca romana, lo scandalo della delle banche, e si chiama il crack delle banche. Ulisse Barbieri ha composto nel 1896 questa poesia che poi è stata musicata ed è stata pubblicata sulla rivista L'Asino, che era una rivista di satira politica del 1893, e parla proprio di quello che le masse popolari pensavano delle banche, il crack delle banche. S'affondano le mani nelle casse, crack, s'afferrano sacchetti pieni d'oro, crack. E per governare come fare? Rubar, rubar, rubar, sempre rubare. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutto. Or lor son tre celebri ladroni che per aver rubato li fanno senatori. Mazzini, Garibaldi e Masaniello, crack, erano tutti quanti malfattori, crack, gli onesti sono loro e Cuciniello, Pelluggio, Litti, Crispi e Lazzaroni. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutto. Lor son tre ladri tutti e tre che per aver rubato li han fatti cugini del re. Se rubi una pagnotta, un cascherino, crack, te ne vai dritto in cella senza onore, crack. Se rubi invece qualche milioncino ti senti nominar commendatore. governatori, sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Lor son tre celebri ladroni che per aver rubato li han fatti senatori. Lor son tre ladri tutti e tre che per aver rubato li han fatti cugini del re. Altro modo di vedere le banche. E 1893, la madre di tutti gli scandali delle banche è stata quella della Banca Romana. Nel 1972 Fausto Amodei ha composto questo una breve, è più lunga, ma io faccio solo alcune strofe. Ha composto Uomini e soldi per seguire la traccia dei soldi, per seguire la traccia dei soldi, Uomini e soldi si intitola. Son senza patria i soldi o dei padroni, son soldi viaggiatori come i piccioni, per far viaggi d'affari o di piacere, i capitali varcano le frontiere, son mille più miliardi che hanno la conseguenza di tutto questo flusso di soldi che si mangiano i padroni è stato raccontato da Alfredo Bandelli sempre in quegli anni, nel 74. E partono gli emigranti, si intitola. Se devo partire, se devo restare lontano da te. Piangere bella, non piangere mai, che presto vedrai il ritorno da te. Addio alla mia casa, addio alla mia terra, addio a tutto quello che lascio qua giù. Non tornerò mai, soltanto i ricordi io porto con me. Partono gli emigranti, partono per l'Europa, sotto lo sguardo della polizia, ma questa miseria coscienza mi dà. E cresce la rabbia e cresce la voglia di avere il mondo per me. Partono gli emigranti, partono per l'Europa, sotto lo sguardo della polizia, partono gli emigranti, partono per l'Europa, i deportati della borghesia. Io volevo fare anche un ultimo canto, anzi veramente due. Uno che si intitola Il canto dell'allodola, è da una leggenda irlandese presente nel libro Scritti dal carcere di Bobby Sands, che tra il 76 e l'81 morì dopo 66 giorni di sciopero della fame, e questo canto è dedicato ad Alfredo. Canta ancora l'allodola, canta come hai cantato per Bobby Sands. Con il tuo canto porti l'amore dentro la cella senza calore. Dai cieli d'Irlanda il tuo trillo ha ispirato chi la sua testa non ha piegato. Chi vuol cambiare la realtà con gesti d'amore e libertà. Sole hai sfiorato per un solo attimo il viso provato di chi può guardare a malapena dietro le sbarre la luna piena. Bacia i ragazzi turchi del coro, a loro, alle barbarie nelle galere degli aguzzini che hanno il potere. A chi non si piega tendi la mano, chiuso in quel carcere così disumano. Nostro presente scritto del barcone sulla strage di Cutro. Qui sta crollando un po' il microfono, ma pazienza. Il 4 marzo furono 74 le vittime accertate, adesso sono quasi 100. Il naufragio di Cutro, le ultime ore del barcone. Dalle coste di Turchia, 200 sul barchino, padri e madri disperati, aggrappati al suo bambino. Yeah. ringrazio per la pazienza. Buona continuazione di festa. E per ricordare il nostro primo. Ciao a tutti.